Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, il podcast settimanale sulla stagione NBA 2017-2018. La boa delle 10 partite stagionali è stata praticamente superata da tutte le franchigie NBA. Andiamo a dare un'occhiata quindi a quello che è successo negli ultimi 7 giorni, considerando che stiamo registrando ed è mercoledì pomeriggio. Prosegue il periodo caratterizzato da più ombre che luci per i Cleveland Cavaliers, una squadra che non riesce a trovare un minimo di stabilità a livello di risultati. Per la verità la questione è capire molto proverbialmente se Cleveland ci è o ci fa, come si suol dire. Infatti, in questo avvio di stagione la squadra guidata da Tyronn Lue ha sempre vinto con squadre che lo scorso anno sono arrivate ai playoffs come Boston, Milwaukee, Chicago e Washington. Quello che ha destato clamore però sono le sconfitte con squadre per così dire di seconda fascia, in particolare quelle con Knicks, Pacers e Hawks in casa, subendo una discreta quantità di punti. Ed è proprio la mentalità difensiva a preoccupare i tifosi di Cleveland, laddove contro LeBron e compagni appare semplicissimo tagliare la difesa in due con una penetrazione e servire l'immancabile scarico libero sotto canestro a causa di ritardi di rotazione. Sicuramente saremo smentiti dai prossimi risultati, ma la parola crisi, alla terza settimana di regular season, diviene anche pronunciabile seppur sottovoce. L'unico, inevitabilmente, che si dimostra all'altezza della situazione è il solito LeBron James, che viaggia a quasi 29 punti, 9 assist, 7 rimbalzi per allacciata di scarpe. Con una sua prestazione strepitosa, i Cavs hanno espugnato Washington in quella che ad oggi appariva effettivamente la gara più complessa in calendario, che per James si è conclusa con 57 punti messi a referto, apparentemente senza sudare troppo. Oltre ai 7 assist, agli 11 rimbalzi e ai 3 recuperi, da segnalare il 23 su 34 dal campo messo a tabellino dal re, soprattutto tenendo in considerazione l'altissimo livello di difficoltà di gran parte dei tiri che progressivamente si è preso all'avvicinarsi del finale di gara. Poteva essere la gara della svolta, ma Cleveland è inciampata di nuovo nella sfida domenicale casalinga contro Atlanta, andando sotto subito e mantenendosi malamente in scia, per poi risvegliarsi all'ultimo momento, quando effettivamente era troppo tardi. Alla fine, con gli ultimi 30 secondi che sono durati un'eternità, Atlanta se l'è portata a casa per 2 punti. Per i Cavaliers, a parte il solito James da 26 punti e 13 assist, segnali positivi da un Dwayne Wade che dalla panchina ne mette 25 con 11 rimbalzi e 6 assist, ed anche da un Kyle Korver da 5 triple e 23 punti. Due giocatori che hanno contribuito a tenere accesa la fiammellina della speranza, non sufficiente però a ribaltare il risultato. Risultato diverso ancora una volta nella sfida casalinga contro Milwaukee di martedì notte, avviata benissimo da Cleveland, ma vinta in definitiva in volata grazie ad un Kevin Love da 32 punti e 16 rimbalzi e un LeBron James da 30 punti, 8 rimbalzi e 9 assist, e nonostante uno Giannis Antetokounmpo da 40 punti. Per i Milwaukee Bucks è la notte di una notizia piuttosto inaspettata, quella della trade che vede arrivare a Milwaukee Eric Bledsoe da Phoenix, in cambio sostanzialmente di Monroe. Interessante sarà vedere come Milwaukee inserirà il piccolo ed atletico ex Suns in un quintetto dove la point guard sembra essere saldamente Malcolm Brogdon, ma in ogni caso si tratta di una integrazione indubbiamente interessante che regala alla squadra di Jason Kidd l'occasione per un ulteriore salto di qualità. Valutando un attimo le classifiche ad est, al momento in cui registriamo Cleveland ha 5 vinte e 6 perse, mentre i Bucks si trovano con 4 vittorie e 6 sconfitte. Continuano a sostare in alto nella conference i Detroit Pistons, secondi dietro agli attualmente imprendibili Boston Celtics, mentre continua a far bene Orlando con 6 vinte e 4 perse. Come detto, stiamo registrando che è mercoledì pomeriggio e con la vittoria di ieri sera, guidata da un super Dario Saric e stavolta senza Embiid in campo, la classifica dei Philadelphia 76ers inizia a sorridere. Il record anche per loro è di 6 vinte e 4 perse. Diamo un'occhiata rapida ad ovest, iniziando con una domanda. Si può pensare di sussurrare la parola crisi anche per gli Oklahoma City Thunders, che rappresentano un altro oggetto misterioso rispetto ai progetti annuali? La squadra dura molta fatica a raggiungere una continuità di risultati, probabilmente in mancanza di una identità di gioco complessa da trovare, malgrado le tre stelle siano in grado di produrre statistiche personali quasi sempre lusinghiere. Al solito, Westbrook è leader indiscusso nella Lega per palle perse, e questo dato dovrebbe far riflettere in una condizione in cui non è più da utilizzare il suo essere da solo nell'isola come giustificazione. E dire che per i Thunders le cose sembravano essere sulla via dell'aggiustamento dopo le vittorie in trasferta a Chicago ed a Milwaukee. Purtroppo per loro però nelle gare a seguire si sono trovati di fronte le squadre guidate dai giocatori forse più in forma del momento, Damian Lillard e Kyrie Irving, uscendo sconfitti in entrambe le sfide consecutive. Ora, guardando alle classifiche, niente è ovviamente perduto. Malgrado questo però è da considerarsi il fatto che difficilmente se si andasse ai playoff adesso i Thunder sarebbero nella top 8 e anche i già detti Cavaliers tra l'altro. Meglio quindi ascoltare il campanello d'allarme, ricordandosi che la difficoltà nel far convivere i Big Three in un sistema di gioco comune, tenendo conto anche di tutti gli altri, era ampiamente prevista e prevedibile e che pertanto questa squadra potrebbe aver bisogno di molto tempo per riuscire ad incontrare il suo equilibrio definitivo. Importante è nel frattempo mantenersi il più possibile in scia playoffs quantomeno, cosa non esattamente scontata considerando che hanno perso anche martedì notte in casa dei Sacramento Kings, non esattamente la squadra più temibile ed in forma della Lega in questo momento. Comunque, tornando ai 57 punti di LeBron James, a proposito di super prestazioni personali e restando ad Ovest, impossibile non citare il James Harden di domenica notte contro gli Utah Jazz. Il barbone ha chiuso la sua gara con 56 punti e 13 assist, soprattutto con uno spettacolare 19 su 25 dal campo in 35 minuti contro una delle squadre che difendono meglio della Lega, gli equilibratissimi Jazz, che anche in questa situazione hanno mandato offensivamente in doppia cifra 7 giocatori. Houston si è ovviamente portato a casa la W, proprio grazie alla performance pazzesca di colui che forse, per le stesse ragioni dello scorso anno, e cioè che James è tutto sommato fuori classifica, è il più pole position al momento nella corsa all'MVP stagionale, pur essendo chiaramente presto per pronunciarci ovviamente. Restando per un attimo nello Utah, continua ad impressionare per maturità e concretezza il rookie Donovan Mitchell, uno dei talenti cristallini della classe di rookie appena entrata nella Lega, che al momento si attesta su media attorno ai 14 punti per gara. Proseguendo il nostro sguardo nella classifica d'Ovest, Golden State saldamente in testa appaiata proprio con Houston al vertice della conference. Dietro li seguono a limitata distanza le due vere sorprese del momento, Memphis e Minnesota. Se i Grizzlies sono ripartiti similmente allo scorso anno, Minnesota sta dimostrando al momento di essere una delle squadre che più ha beneficiato delle mosse evidentemente azzeccate nel mercato estivo. Jimmy Butler si è accodato apparentemente dietro a Karl Anthony Towns e Andrew Wiggins come terzo violino della squadra. La sua non assoluta brillantezza offensiva statistica, si attesta comunque intorno ai 15 punti di media, non sembra aver creato problemi per i lupi di Minneapolis. Wiggins viaggia a 20 punti per gara e Towns si attesta intorno ai 22, 11 rimbalzi e 2 stoppate di media. Assolutamente non male. Che risulta decisivo, invece, a mio avviso, sono gli altri due nuovi arrivi del quintetto. Un Jeff Teague capace spesso di saper far giocare le sue numerose opzioni offensive per trovare i colpi decisivi quando la palla scotta, ed un Taj Gibson che recita l'unico ruolo in cui potrebbe meritarsi un Oscar al momento, quello dell'attore non protagonista, attestandosi su media vicina agli 8 punti agli 8 rimbalzi per allacciata di scarpe. Tornando al ranking ad Ovest, anche una San Antonio un po' in frenata si accosta ai record di Grizzlies e Timberwolves, mentre occhio alle Twin Towers di New Orleans. Al momento in cui stiamo registrando la squadra sarebbe settima ad Ovest, ma la cosa da considerare sono le statistiche di quei due, che sembrano giocare molto bene e molto volentieri uno accanto all'altro. Quasi 29 punti e 13 rimbalzi con 2 stoppate per DeMarcus Cousins, 27 punti, 13 rimbalzi e 2 stoppate di media per Anthony Davis. Arrivassero ai playoffs non sarà un piacere affrontarli, soprattutto per squadre che sotto canestro risultano un po' deboli, ma ancora è presto per pensare a primavera. Proseguiamo con un piccolo focus su due giocatori che stanno facendo vedere qualcosa di interessante. Iniziamo parlando del lettone Kristaps Porzingis, il giocatore al quale sono state affidate le chiavi dei New York Knickerbockers. Il ragazzo sta dimostrando ampiamente di essersele meritate, continuando nella vertiginosa evoluzione fisica e statistica che ne ha caratterizzato la carriera. Per la verità, rispetto alle aspettative disastrose, se New York va meglio del previsto, gran parte del merito è proprio di questo elegante airone lettone, che ha aggiunto al suo fisico muscoli e pesantezza, ed al suo gioco una notevole potenza. Lo avevamo già visto in gran forma nei campionati europei estivi, ma la crescita ed il dominio di certe partite non era così prevedibile, soprattutto in NBA. Segna praticamente da ovunque, con un raggio di tiro illimitato di una meccanica elegante ed efficace, considerando anche la sua altezza. Ha nettamente migliorato la sua capacità di costruirsi un tiro efficace in isolamento e corre a tutto campo, che è un piacere da vedersi. nella sfida di domenica contro Indiana, ha chiuso con 40 punti al referto, con 15 su 24 dal campo, 8 rimbalzi e soprattutto 6 stoppate. Statistiche che più o meno si replicano nelle sue attuali medie stagionali. Si parla di 30 punti di media, 8 rimbalzi e 2 stoppate. I suoi numeri sarebbero tecnicamente da MVP, anche se è chiaro che ancora c'è moltissimo tempo, moltissima stagione ancora da giocare, che la concorrenza è in materia agguerrita e che comunque la squadra di New York non è destinata a restare tra le top 8 nella Eastern Conference. Però per Paul Singis il tempo per crescere ancora ulteriormente c'è. Ed è forse questo ultimo dato a lasciare potenzialmente a bocca aperta ogni volta che lo si vede concludere di potenza un contropiede oppure schiacciare pesantemente in faccia qualche povero Cristo a difesa schierata e magari l'azione seguente prendersi un tiro perfetto in fadeaway jumper. Se dichiaratamente il suo mentore è stato Dirk Nowitzki, che resta uno dei migliori giocatori di sempre e non solo tra quelli in attività, io azzardo che Porzingis ha tutti i numeri a posto per poter sperare quantomeno di raggiungerne il livello qualitativo. Chissà se potrà ambire ad offuscare una stella con una carriera tanto incredibile. Due parole, infine, ancora, sull'uomo che sta guidando quella che al momento è la squadra più forte della Lega, Kyrie Irving ed i suoi Boston Celtics. L'ex point guard dei Cleveland Cavaliers sta dimostrando al mondo non solo di non essersi dimenticato cosa significa essere un franchise player, ma anche di aver appreso probabilmente dall'ex compagno LeBron James doti di leadership spiccate ed efficaci. È anima e cuore di una Boston che difende, corre, tira da tre e gioca in modo equilibrato, ma che nei momenti in cui la palla scotta sa esattamente a chi passarla e chi può togliere le castagne dal fuoco per la squadra. Inevitabilmente si tratta del numero 11, che ha portato i suoi ad essere la prima squadra nella Lega ad aver vinto 9 gare consecutive dopo aver perso le prime due. Tanto per raccontarne una, nella sfida di lunedì notte contro i Raptors, Irving ne ha messi 35, con 4 triple ed un 14 su 22 dal campo, condendo il tutto con 7 assist. Viaggia a quasi 22 punti, 5 assist e 2 recuperi e mezzo per allacciata di scarpe, con 2 palle perse di media. Non si tratta delle sue statistiche individuali migliori in carriera, ma è il livello di consapevolezza che impressiona. Soprattutto il ruolo di guida in una squadra che sembrava segnata dalla perdita per infortunio di Hayward dopo l'opening night e che invece si sta riscattando con il miglior record della Lega al momento. Chiudiamo con uno sguardo rapido ai leader statistici dopo che praticamente tutte le squadre sono scese in campo almeno 10 volte in questa stagione. Top scorer della Lega è il greco Giannis Antetokounmpo, con 31 punti per gara, seguito dai 30 del lettone Porzingis e dai 29 di James Harden. Quarto posto per King James con 28.8 per allacciata di scarpe e quindi quinto posto per DeMarcus Cousins. Nei rimbalzi domina DeAndre Jordan con 15.1 di media, di poco sopra i 14.7 di Andre Drummond. Scende un po' Dwight Howard che si attesta poco sotto i 14 per gara, poi seguono a ruota i due di New Orleans, le due torri gemelle di cui abbiamo già parlato. Negli assist, nonostante i pessimi risultati di squadra, Russell Westbrook resta il numero 1 con 11.4 di media, davanti a John Wall. Li seguono Harden, James e Jeff Teague. Nei recuperi, al momento il leader è Paul George, sempre dei Thunders, con 2.33 per gara, mentre nelle stoppate è Rudy Gobert con 2.50, seguito da vicinissimo da un Kevin Durant che sta stoppando 2.45 palloni per partita e che appare ben concentrato su questo fondamentale in questo avvio di stagione. Chiudiamo con le percentuali di tiro. Quel Clint Capela che sembra schiacciare spesso e volentieri nel canestro ogni pallone che gli viene lanciato nei dintorni è leader incontrastato della Lega con il suo 68% dal campo. Lo segue a stretto contatto Steven Adams. Benissimo, anche questa puntata di NBA Week giunge al termine. Colgo l'occasione per rinnovarvi i nostri appuntamenti ricordandovi di seguire sempre la nostra pagina Facebook che si chiama appunto NBA Week per aggiornamenti e commenti dell'ultimo minuto. Invece, come al solito, potete, se volete, ascoltarci tutti i venerdì sera alle 21 sul flusso streaming di Radio Big World, tutti i sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie per l'ascolto, a risentirci la settimana prossima.